Sta per andare in onda adesso l'intervento della candidata senza volto, Simona Panzino. Chiederei a Pierluigi di mandarla. La di non avere lavoro, cioè di non essere nemmeno precaria, perché comunque il lavoro è nero. Dopodiché il candidato senza volto giovedì scorso mi ha chiesto anche di fare da prestanome per queste primarie. E quindi sono qua oggi a parlare con voi, anche con un certo imbarazzo, perché comunque la mia non è una storia politica, la mia non è una storia che nasce da Genova, anche se in un certo qual modo io mi sento figlia di Genova, perché i compagni e le compagne che sono state a Genova contro il G8 hanno restituito a me e a molta gente come me, normale, che fa una vita normale, di lavoro, eccetera, un immaginario, cioè un immaginario diverso, per cui dopo Genova noi abbiamo creduto veramente che era possibile avere un mondo diverso, ma che era anche possibile prendersi con la forza e con la lotta dei diritti che in questa Italia, in questa società ci vengono negati. La possibilità di occupare una casa, proprio perché magari a Roma, così come anche in molte altre città italiane, è impossibile proprio riuscire ad avere un contratto di affitto, anzi sei guardato pure male se chiedi un contratto o una casa perché magari non hai un lavoro o non hai un reddito sufficiente a pagare i vari 1.000-1.500 euro al mese che vengono proposti. E per cui me, come altri tantissimi uomini e donne, iniziano a fare una lotta che parte appunto da un'esigenza concreta. Io sono questo, nasco perché avevo bisogno di casa, non c'avevo una lira e allora ho deciso di occupare, e vivo al De Lollis a San Lorenzo da 3 anni in una stanza all'ottavo piano, e ancora oggi, nonostante che comunque la disponibilità dei partiti, nonostante che tutti dicono bella, avete fatto bene, io continuo a vivere in quel palazzo che era un ex ufficio con i bagni e le cucine in comune. Questa è la situazione. Per quanto riguarda la questione delle primarie, scusatemi la semplicità, noi abbiamo ritenuto che fosse necessario candidarci a queste primarie. Ma chi è che ha ritenuto necessario candidarsi a queste primarie? L'hanno tenuto necessario tutta una serie di persone, di uomini, di donne, di comitati che difendono il loro diritto all'abitare, che difendono gli sfratti, di gente come quelli che scioperano per esempio alla Tese o in altri call center che non gli viene riconosciuto un contratto, gente che ogni giorno ha intrapreso da alcuni anni a questa parte la propria lotta quotidiana. E ha deciso di farlo insieme a tantissime altre regioni, insieme anche al nord-est, insieme a Roma, insieme alla Calabria, insieme al movimento dei disoccupati calabresi, ma anche con l'aiuto dei compagni che ci hanno ospitato qui, perché a un certo punto ha capito che i partiti, così come vengono intesi, non ci rappresentano per niente. Ora è inutile che qui si spendono parole, che noi apprezziamo, apprezzo tutti i contributi, vanno tutti bene, siete stati bravissimi, bella, io sono d'accordo con voi. Dopodiché io vi dico che ogni giorno continuo a prendermi le mie belle denunce. Ma perché? Perché difendo la signora oltre 75enne che deve essere sfrattata, perché Berlusconi una mattina si è alzato e ha deciso che comunque non si poteva più dare le proroghe agli anziani nelle case, che dovevano andare via perché i grandi immobiliaristi devono specularci sopra. Continuiamo a prenderci le denunce perché magari andiamo a manifestare davanti a Banca d'Italia, perché Fazio pure lui si alza la mattina e decide di sgomberare uno dei nostri palazzi abitato da 80 nuclei familiari. Continuiamo a prenderci le denunce perché decidiamo di scioperare all'interno del nostro call center, dove siamo costantemente e continuamente attaccati. Quindi forse un'idea che potrebbe nascere qui è una proposta che io rivolgo ai parlamentari, ma anche ai politici che non sono qui in questo momento: venite con noi ad occupare le case, venite con noi a fare gli scioperi dentro i call center, date i vostri documenti e vediamo che succede, perché di interrogazioni parlamentari e di cose che vengono portate al Parlamento ce ne sono tante. Dopodiché noi continuiamo a prenderci le denunce e continuiamo ad andare in galera, e noi questa situazione non la possiamo più sostenere, la troviamo vergognosa. Noi abbiamo trovato necessario candidarci alle primarie per scardinare anche una farsa. Le primarie sono una farsa, lo abbiamo detto anche ieri, si devono vergognare tutti quanti, tutti quanti, tutti. tutti, dal primo all'ultimo partito, perché noi non capiamo il perché, se c'è un regolamento che dice che tutti i partiti, noi non abbiamo una lira già così, possono spendere un massimo di 300.000 euro, voi mi dovete spiegare il perché. Viene fatto un consiglio straordinario dei DS, la tesoreria, c'è l'articolo sull'unità, non lo so ripete, in cui si destinano 2 milioni di euro a Prodi. Mi dovete spiegare il perché tutta Roma è tappezzata da grandissimi manifesti di tutti i partiti, dai DS a Rifondazione Comunista, e mi dovete spiegare il perché a noi ci fanno storie, perché io ho semplicemente chiesto di potermi candidare su quelle schede col soprannome Detta Senza Volto, e mi dovete anche spiegare il perché Castelli, che credo sia il ministro della giustizia, scrive, e nessuno gli ha risposto, che la candidatura del candidato con il passamontagna ha tutta l'aria di avere un terrorista all'interno delle primarie. Queste sono parole che sulla nostra pelle pesano ogni giorno, e noi siamo stanchi, noi vogliamo portare l'inquietudine, vogliamo che voi abbiate una vita difficile come la nostra, vogliamo essere presenti nelle vostre istituzioni, vogliamo essere presenti alle primarie, vogliamo essere presenti alle elezioni governative, vogliamo essere presenti nei municipi, nei comuni e allo Stato, perché noi ogni volta che ci vedete dovete stare male, dovete capire che noi i problemi sulla nostra pelle li viviamo sul serio, dovete capire che se una persona si vuole laureare e deve comprare i libri, porca miseria, deve andare a fare 3.000 lavori neri la sera e non riesce nemmeno a pagare le tasse universitarie, la casa e tutto quanto. Ecco il motivo per cui noi abbiamo deciso con forza di candidarci a queste primarie. E permettetemi un'altra cosa che voglio aggiungere: se oggi o se ieri appaiono articoli sul manifesto e su altri giornali in cui esponenti della politica, della sinistra, parlano di amnistia generalizzata per i reati sociali, vuol dire che forse una piccola vittoria con la candidatura di questo senza volto l'abbiamo già ottenuta, perché prima non se ne è parlato. È inutile che ci prendiamo in giro, è inutile, erano tutti d'accordo con un programma dell'Unione per poter far vincere la sinistra, ma dal momento in cui ci siamo portati noi, diciamo, alla luce, alla visibilità della gente, dicendo vogliamo l'amnistia per i reati sociali e non solo, anche per i reati minori, per chi c'è il fumo in tasca e sta in galera, per chi è beccato senza il permesso di soggiorno e sta in galera, eccetera eccetera, si inizia a parlare di amnistia, per cui noi siamo contenti, siamo fieri di questo, perché vuol dire che forse un barlume, forse un'apertura degli occhi ve l'abbiamo data, e questo è il motivo per cui noi oggi siamo qua. Noi oggi siamo qua e vi dico anche un'altra cosa, noi ci vogliamo stare in queste primarie. Tra parentesi, stiamo aspettando la risposta da Roma, non mi ricordo come si chiama quello che sta all'Unione e decide se io possa avere o meno il soprannome, non me lo ricordo. Cioè, ancora devono deliberare, dovevano metterci 24 ore a dirci se potevo scrivermi col senza volto, sono passati 3 giorni. Non solo, il regolamento diceva, entro il 15 di settembre si decidono i seggi. Sappiamo tutti che hanno litigato fra di loro con i seggi, non ci hanno invitato una volta a dire la nostra per poter dire noi vogliamo i seggi all'interno dei palazzi occupati, noi vogliamo i seggi all'interno dei centri sociali, perché anche quello è un popolo che vota e sono voci di persone che hanno diritto, così come noi vogliamo i seggi in tutti quei palazzi dove ci sono le persone sotto sfratto o in tutte quelle situazioni in cui c'è gente che lotta. Perché non ipotizzare un seggio all'interno del parcheggio autogestito di Cosenza del movimento di disoccupati o quant'altro? Ma queste cose perché non ce le fanno dire? Perché ci tengono zitti? Perché non ci danno la visibilità sui giornali e ci censurano? E ci censurano? E ci censurano sempre? Noi siamo stanchi, noi questa voce la vogliamo far emergere. Io adesso non lo so che percentuale prendiamo al 16 ottobre, manco me ne intendo che significa 1% o 5%, non me ne frega niente. Noi vogliamo che in questo mese abbiamo una visibilità. Vogliamo che tutti si mettano a parlare e ascoltino le cose come stanno, perché a noi non ci ascolta nessuno, perché noi a fatica dobbiamo sempre avere la visibilità, sempre attraverso azioni legali, illegali. Noi siamo nel pieno della legalità, quelli che sbagliano sono gli altri. Io vorrei sapere anche se i parlamentari, i politici che ci sono oggi, si spendono magari ad aiutarci, perché il 30 settembre vogliamo fare una conferenza stampa che lancia una manifestazione nazionale sulla casa, e noi la vogliamo fare davanti a Banca d'Italia, perché secondo noi loro devono devono stare in galera, non noi. Io non voglio essere arrestata perché occupo la casa mia, è pazzo, sono quelle persone lì che ci hanno sgomberato, che ci hanno denunciato, che devono andare dentro. E io su questo vorrei anche avere delle risposte, e ho concluso, grazie.